Questo 9 giugno a Bologna ci sarà un momento dedicato ai giovani e alla cittadinanza per parlare dell'importanza della partecipazione politica e per affrontare gli impatti del cambiamento climatico e agire in prima persona. Io oggi ne parlerò insieme a Margherita Romanelli, coordinatrice Policy e Advocacy internazionale di WeWorld. Buongiorno Margherita e benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno a voi e grazie. Allora, innanzitutto Margherita, chi saranno gli ospiti di questo appuntamento di questo venerdì pomeriggio? Allora, venerdì pomeriggio sarà una lunga maratona sui temi della partecipazione, in particolare la partecipazione giovanile e in particolare rispetto ai temi del cambiamento climatico, la sfida delle crisi climatiche che attualmente abbiamo in corso. Ci saranno due sezioni, una sezione più orientata ai giovani e una sezione invece aperta a tutta la cittadinanza. In questa seconda fase, che inizierà alle 17 presso il VAG 61 di via Paolo Fabbri, saranno presenti tre ospiti di eccezione, perché avremo innanzitutto Guido Viale, lo conosciamo tutti, è un saggista, un sociologo, esperto e da tanti anni scrive sui temi della transizione ecologica. In più è stato uno dei massimi esponenti, diciamo, di movimenti di partecipazione e lotta, diciamo, degli anni 70 per l'ottenimento dei diritti. E poi avremo invece contrapposto Simone Ficicchia, contrapposto in termini di attualità rispetto alle lotte, perché Simone Ficicchia è uno degli esponenti di Ultima Generazione, il gruppo di giovani che attualmente, anche destando un certo scalpore, sta cercando di portare all'attenzione del pubblico il tema della crisi climatica. E in aggiunta avremo Nadia Pagani, che rappresenta la sezione dell'Ampi del Pratello, che appunto riuscirà anche a riportarci a quelli che sono i principi dell'antifascismo e della partecipazione che poi ci hanno permesso appunto di arrivare alla nostra Repubblica e alla Costituzione che abbiamo oggi, dove peraltro il tema della protezione ambientale è stato sancito proprio come valore da salvaguardare e come diritto da garantire in Costituzione. Come ci raccontavi tu, appunto, le tematiche ruoteranno intorno alla giustizia climatica e so anche che toccherete il tema della recente alluvione nel nostro territorio, nel territorio romagnolo. Esatto. Non possiamo dimenticare, non possiamo non vedere quello che è successo appunto nel nostro territorio e cercheremo anche di fare una lettura su che cosa è accaduto e come appunto sia necessaria proprio un riappropriarsi da parte dei cittadini e delle persone che vivono il territorio della cura dello stesso territorio. Chiaramente questo deve andare in parallelo con una responsabilità delle istituzioni pubbliche che sono deposte ovviamente a tutelare il territorio comune e quindi il patrimonio anche di risorse naturali che del nostro paese. Bene Margherita, grazie mille per averci raccontato qualcosa di più riguardo questo incontro che, ricordo ancora una volta, sarà questo 9 giugno al VAG 61, come dicevi giustamente tu, in via Paolo Fabbri, dalle 17 in poi. Grazie mille e vi aspettiamo numerose.